così non ci sono scuse. Allora, all'onorevole sindaco Gianni Levano, al presidente del municipio che è qui, Pasquale Calasetta, all'assessore all'urbanistica Marco Rossini, attualmente non è qui, al capogruppo del Partito Democratico Roberto Marroni, al presidente della commissione ambiente Andrea Prima, che mi ha telefonato, non può venire, ma il suo vice ha mandato il vicepresidente del municipio Maurizio Cuoci, al capogruppo Andrea Zetta, che attualmente non è ancora qui ma spero ci raggiungerà, a Ivano Peruzzi, ma credo che al suo posto verrà Roberto Nobili, Fabio Nobili, a Enzo Foschi, che ci ha chiamato al suo posto perché non ha altro consigliere comunale regionale, Marco Cacciotti che è qui, Gemma Azzurri che ci ha comunicato di non poter venire, Luca Ramazzo, ma credo che qui ci sia il consigliere Domini, Alessandro Comorato che ci ha detto che ci raggiungerà e il consigliere Quadrana del Partito Socialista della lista civica per Francesco Rubelli. Allora, quindi noi abbiamo invitato tutti, oltre a questi qui abbiamo mandato l'invito ai capogruppo del PDL di Unis, ma è ampiamente rappresentato, al capogruppo del Partito Democratico Augusto Durasso, spero ci raggiungerà, al capogruppo dell'Italia dei Lavoratori, Federico Siracusa, Matilde Spadaro, credo Sinistra e Libertà, non so, ad Antonio Tortosa, credo capogruppo della Futura Libertà, e a Francesca Guardato, capogruppo dell'Unici. Quindi noi abbiamo invitato tutti, in modo che poi nessuno possa dire che non lo sapeva. Li abbiamo invitati con largo anticipo, quindi tutti sapevano della nostra assemblea, sono stati ampiamente invitati, abbiamo mandato una comunicazione a tutti. Chi c'è oggi qui, lo vedete, oltre a loro, è presente l'assessore dei lavori pubblici del 12° municipio Gianni Confini, che non risulta nell'elenco, ma è qui con noi, non era tra coloro che l'hanno invitato, ma è qui con noi, quindi un motivo di più. Allora, è qui presente il senso del progetto, consigliere del Partito Democratico, e abbiamo la presenza del segretario della federazione della sinistra Tina Costa, Francesco Menotti è amico, ma non diciamo un altro fratello che partecipa sempre. Io non so se ci sono altre persone da venire, ma devo girare, però se ce ne sono mi scuso perché non li conosciamo. Nel proseguo dell'assemblea, di coloro che verranno, saranno citati perché per noi questa è la prima di una serie di assemblee che faremo alla fine di arrivare alla risoluzione di una serie di problemi. Che non è solo il compagno che ha solo diritto di giudizio. Allora, questo tema che tratteremo qui stasera è uno, io prima di trattare di questo aspetto parlo di altri due problemi, che sono il programma di cultura urbana del nostro quartiere, il sistema di trasporto pubblico del nostro quartiere, e dopodiché do la parola a Maurizio Filipponi e all'Agostino Ruggini che parleranno sulla tematica di quello che abbiamo fatto. Sapete che il 25 abbiamo fatto una manifestazione presso l'assessorato dell'assessore Corsini. Vi dico fin da ora che durante quell'incontro che riguardava il diritto di superficie c'è stata data un'informazione sbagliata, il comune ha detto che ci aveva invitato diverse volte a un tavolo, poi quando noi abbiamo chiesto i protocolli di questi invito il comune non li trovava e puntualmente invece l'invito è arrivato per il giorno 9 di questo mese. Nel frattempo, questo lo dico così, prima di entrare negli altri argomenti, ogni giovedì puntualmente la giunta comunale presenta il consiglio e anche il lunedì la delibera 142. Che cos'è la delibera 142? È la delibera con la quale si intende agganciare a l'Istat il costo dei terreni su cui sono stati costruiti i nostri fabbricati. Questo avviene puntualmente. Per onore bisogna dire che puntualmente noi siamo chiamati dal consigliere Azzetta, dal consigliere De Priamo e dalla consigliera Gemma Azzuni, che ci informano di questa cosa, e puntualmente questi tre consiglieri richiedono il ritiro di questa delibera. Questa è stata una dei motivi della nostra discussione 25 con l'architetto Meloni presso l'assessorato. Ora, quello di cui voglio parlare oggi, mentre loro parleranno di questo tema, è il futuro del nostro quartiere. Avete visto, noi abbiamo titolato un volantino, Laurentino, un futuro incerto. Per quale motivo? Il motivo del volantino, Laurentino, un futuro incerto è questo. Da circa 10 anni ci vengono proposte, soluzioni per il nostro quartiere. Una di queste proposte era il programma di recupero urbano. Il programma di recupero urbano, ai sensi della legge 1996, cos'è? È un accordo a tre, tra il comune, la regione e dei proprietari privati. Il comune e la regione mettono a disposizione dei proprietari privati delle aree, o aree anche di proprietà di questi signori. Questi signori fanno delle proposte, le loro proposte vengono valutate dalla commissione del Comune di Roma. Se vengono accettate, quindi proposte di nuove edificazioni, nuove costruzioni, se vengono accettate, questi signori hanno il diritto a costruire e in cambio realizzano delle opere pubbliche nei quartieri di edilizia residenziale pubblica degradati ai sensi di questa legge nazionale, la 493 del 1993. Il nostro quartiere rientra all'interno della normativa di questa legge e l'11 gennaio del 2001 il Comune di Roma ha votato un documento nel quale per il nostro quartiere si arrivava a un finanziamento di circa 100 miliardi, oggi 50 milioni di euro, per fare una serie di opere pubbliche: l'impianto sportivo, il centro civico, il boulevard, la ricostruzione delle aree verdi, delle isole, delle case popolari, di tutto e di più. Di tutto e di più. Sono trascorsi gli anni, il 13 maggio del 2006, pensate 5 anni dopo, il Comune di Roma approva la ratifica dell'accordo di programma. Il Presidente della Regione Lazio, Laura Carrasco, e il Sindaco di Roma, Veltroni, sottoscrivono quell'accordo di programma che stabilisce che cosa? Parole semplici. Accanto al nostro quartiere c'è un'area dove prima c'era il campo nomadi. Su quell'area c'era un comprensorio industriale. I proprietari potevano costruire dei capannoni nei quali realizzare una falegnameria, una carrozzeria, un negozio per i fissi d'alluminio, il fabbro, l'artigiano. Purché il nostro quartiere veniva riqualificato, gli si dà la possibilità di trasformare i capannoni industriali in qualcosa di diverso. Il qualcosa di diverso è un centro commerciale, sale cinematografiche, alberghi, nuovi uffici, una piazza, un sistema diverso, quindi una valorizzazione di quel patrimonio. In cambio loro dovevano fare una serie di opere per il nostro quartiere, per l'esattezza 39 opere pubbliche. L'amministrazione Veltroni mette a disposizione una serie di fondi per fare di quelle 39 opere pubbliche 18. Ne rimangono 21. Si arriva al 23 dicembre del 2008, mentre tutti i cittadini stanno mangiando il panettone, che la nuova amministrazione di Gianni Alemanno sottoscrive una convenzione con i proprietari di quel terreno che stabilisce tutta un'altra cosa. Dal nostro quartiere sono scomparsi 50 milioni di euro e attualmente per il nostro quartiere rimangono 6 milioni di euro finanziati dall'amministrazione di centro-sinistra, girati al comune nell'ottobre 2008, e qui non possiamo essere smentiti da nessuno. I 6 milioni di euro di fondi CESAR, qui i più anziani lo sanno cos'era CESAR, girati al comune di Roma, perché 6 milioni di euro erano della regione, 6 milioni di euro erano del comune di 12 milioni, che erano la parte pubblica dell'investimento per il nostro quartiere. I 6 milioni regionali sono stati già affidati al comune, i 6 milioni del comune di Roma hanno preso altre vie, sono fondi vincolati, quindi ci tengo a dirlo per farvi capire, non possono essere utilizzati altrove, ma questi fondi non ci sono più. I privati, fate voi il conto, 12 sono pubblici, ne dovevano aggiungere 38. 38. Dei 38 milioni di opere finanziate dai privati non c'è più nulla. Oggi cosa ci si dice? Noi consideriamo un'opera fondamentale per la riqualificazione del quartiere Laurentino costruire una nuova sede del municipio fuori dal perimetro del nostro quartiere. E cosa ottiene il quartiere in cambio? Attualmente ancora nulla, perché dei fondi a disposizione per le opere pubbliche di Laurentino non si sa quali sono, tranne i famosi 6 milioni della Regione Lazio. Non ci sono i fondi per espropriare il terreno su cui costruire l'impianto sportivo. Non ci sono i fondi per costruire il centro civico. Non ci sono i fondi a sufficienza per realizzare sul viale Ignazio Silone lo stesso sistema viario che è stato realizzato su via Savori. Non ci sono i fondi per realizzare la riqualificazione delle aree verdi nelle case popolari. Allora noi abbiamo detto, un attimo, in questo momento storico crediamo che allora a questo punto la nuova sede del municipio non sia la cosa più importante da fare nel nostro quartiere, anzi, in un altro quartiere. Noi pensiamo che la sede del municipio possa aspettare, ed è questo l'impegno che avevamo chiesto, non so se qui c'è Pulasso, se è ancora fuori, magari se è fuori e entra in meglio. Nel periodo antecedente alle elezioni ultime, quelle vinte dall'amministrazione Alemanno e dall'amministrazione del presidente Cassetta, noi abbiamo chiesto un'assemblea pubblica, e in quell'assemblea pubblica tenuta sul piazzale del municipio le forze politiche che rappresentavano le istituzioni, maggioranza e opposizione, sul piazzale del municipio hanno preso un impegno categorico: la sede del municipio si farà a Tor Pagnotta, ma quella sede non verrà realizzata con i fondi che servono per fare le opere pubbliche dentro Laurentino. Ed è stata fatta una delibera votata all'unanimità dal Consiglio del Municipio. Sono passati pochi mesi e l'amministrazione Alemanno ha preso un'altra decisione: si fa il municipio lì. Poi, come intendono realizzare le opere nel nostro quartiere non si sa. Allora ci viene detto, ma vediamo quali sono le opere più importanti. È come quando il ragazzino a Natale fa la lista, il padre dice, voglio la bicicletta, voglio questo, e il padre dice, oh, una cosa, Come stanno facendo con noi? Hanno riqualificato un'area intera, facendo una valorizzazione patrimoniale immensa, perché un conto è un cavallone industriale, un conto è un albergo. E poi a noi questa amministrazione ce ne dice, oh, sceglie o la lettera o il gelato, quando per ottenere quella valorizzazione hanno dovuto obbligatoriamente attingere a una norma che riqualificava il nostro quartiere. Allora questa cosa non è possibile. Cioè non è proprio possibile che noi oggi dobbiamo scegliere quello che ci serve, perché quello che ci serve è scritto nell'accordo di programma che è stato sottoscritto dal comune, dalla regione e dai soggetti Pensate, il centro commerciale, questa nuova struttura che viene realizzata accanto al nostro quartiere, veniva collegata, magari dice Luciano Susinso, lo ricordo Luciano, da una passerella pedonale che da via Savoni superava la via Laurentina e ci portava direttamente all'interno di questa struttura. Ma siccome il progetto fatto dall'operatore privato era più alto, hanno fatto il percorso pedonale. Per cui noi, per andare in questo posto che qualcuno considera Laurentino, dobbiamo attraversare 6 corsie stradali. O anche un'altra cosa, come si può considerare quello il nostro quartiere quando un cittadino che magari abita all'ottavo ponte per andare lì deve fare 10 km d'autobus? Tanto vale andare a piedi a Roma pure, anziché che andare dall'altra parte. E dopodiché, ma scusate, ma una volta che noi abbiamo 2 grandi centri commerciali, uno all'inizio e uno alla fine del quartiere, ma delle attività commerciali all'interno del nostro quartiere, che ne rimane? Cioè, la persona anziana, oggi ho 46 anni, ma tra 10 anni, tra 20 anni, anche io magari non utilizzo la macchina, no? Io dove vado a fare la spesa? Devo prendere l'autobus, devo andare lì, cioè devo andare in un altro posto, non nel mio quartiere. Quando abbiamo demolito gli ultimi 3 ponti, abbiamo detto, negli ultimi 3 ponti porteremo la banca, l'ufficio postale, l'ufficio sanitario, il negozio del... Non ci abbiamo portato nulla. Adesso si ripropone lo stesso problema. Demoliamo un altro 2 ponti. Benissimo, demoliamo un altro 2 ponti. E poi? E tutta questa gente che oggi negli ultimi 3 ponti sale sull'autobus, va alla COP, va in ogni posto più sperduto del quartiere a fare la spesa. Quando gli demoliamo anche il ponte quinto e il ponte sesto, anche questi dove vanno? Allora manca una politica attenta di questa amministrazione ai problemi dentro Laurentino, non oltre Laurentino con le Ostiense, dentro Laurentino. Bisogna risolvere i problemi dentro Laurentino, non oltre Laurentino. Al sesto ponte, il programma di recupero urbano prevedeva la realizzazione di un centro civico, una biblioteca di 1500 metri quadrati. Non ci sono i fondi per farlo. Ora, se il programma di recupero urbano si riduce a un viale pedonale come via Savoni, che a differenza di via Savoni, via Ignazio Silone non ha i negozi su strada, ma me lo dite chi ci va a passeggiare via Ignazio Silone? Chi ci va a passeggiare via Ignazio Silone? Che non c'è un negozio. Allora io ci sono 8 bar e 2 strutture commerciali che vendono alimentari. Non c'è un bar e bar, non c'è nulla. Ma di che stiamo a parlare? Quando uno dice riqualifichiamo Laurentino oltre i ponti, ma vi rendete conto che Laurentino non ha una piscina? Laurentino non ha un impianto sportivo, cioè Laurentino non c'è niente di niente. Abbiamo realizzato dopo 10 anni piazza Elsa Morante e oggi siamo in attesa, il presidente Concilio ha detto, stiamo costruendo un percorso sulla gestione di piazza Elsa Morante. Ma anche non parlo del municipio che magari limitatamente può avere voce in capitolo, ma l'amministrazione comunale, il sindaco Alemanno, l'assessore Corsini, l'assessore Ghera, ma vogliono di qualcosa con questo quartiere? Vi racconto un'altra cosa che è gravissima. Nel programma di recupero urbano ci sono 2 milioni di euro finanziati a bilancio in possesso dell'assessore Fabrizio Ghera per riqualificare il ponte ottavo e realizzare sul ponte ottavo un incubatore di imprenditoria giovanile. Non spendono questi soldi. Lo sapete perché? Perché non mi piace la localizzazione del ponte ottavo. All'assessore Fabrizio Ghera non gli piace il ponte ottavo. È è uno dei conti che la Grecia ha demolito anch'esso, ma siccome ancora non si può demolire, non investo i soldi perché non gli piace. Perché non gli piace? Non perché non sia giusto farlo, perché non gli piace. Anche su questo intervento c'è un accordo di programma sottoscritto dal Regione Lazio e dal Comune di Roma, e nessuno al Comune di Roma si sente nell'obbligo di chiamare l'assessore Fabrizio Vera e di dirgli: ma tu quei soldi pubblici puoi fare come ti pare, piace, e stabilire che siccome quello è un ponte e a te non piace il progetto architettonico, non realizzi un'opera pubblica per riqualificare questo quartiere. Noi siamo in queste condizioni. Noi siamo in queste condizioni. Allora, prima ancora di fare ragionamenti, trasferiamo il municipio, facciamo questo, facciamo quell'altro, facciamo l'elenco. Cosa c'è scritto nel programma di recupero urbano? Quali sono le opere del programma di recupero urbano? Io voglio sapere chi è al Comune di Roma che ha deciso che per riqualificare Laurentino Monte Ostiense la prima opera da realizzare è la nuova sede del municipio. Voglio sapere chi sono i cittadini di questo quartiere che dicono che la prima opera per riqualificarci è portare via il municipio. Io vorrei che qualcuno qui alzasse la mano che pensa che portando via il municipio si riqualifica il quartiere nostro. Ma come è possibile questa sta cosa? Che la prima opera, cioè no, faccio l'impianto sportivo, no, la prima opera è trasferimento del municipio, non è possibile. Allora lì invertiamo la linea, io dico proprio presidente del municipio, che lo diciamo sempre, cambiamo la lista della spesa, la sede del municipio è l'ultima delle opere pubbliche che serve a questo quartiere, è l'ultima! Questo quartiere ha bisogno di altre cose, ha bisogno di altre cose. E se un domani la sede del municipio si trasferisce perché al posto della sede del municipio ci sarà qualcosa il cui valore, la cui importanza è come quello del municipio. Questo è l'aspetto, perché altrimenti questo quartiere sarà sempre il ghetto in cui qualcuno come Repubblica e come i servizi di alcuni di cui locali ci descrivono. Non è più possibile. Allora, è arrivato il momento di dire basta, ci sono degli impegni bipartisan su fare un ragionamento serio. Non è possibile continuare a prendere in giro i cittadini del suo quartiere. C'è chi attraverso questo quartiere rivaluta in maniera importante delle rendite immobiliari, e questo è stato fatto. Io credo che allo stesso tempo quello che è stato promesso a questo quartiere vada mantenuto, e vada mantenuto in quella lista che fa parte di quella cosa del programma. Non si può più giocare, e anche questo è di pari passo con i trasporti. Questo è l'unico quartiere del 12° municipio che la domenica ha l'autobus come 50 anni fa da corriera postale. Il 776 la domenica passa una volta ogni ora, una ogni ora. A Torino ci sono tre linee, a Spinaceto ci sono due linee. Non è possibile. Ma dove sta scritto? Laurentino, dopo Spinaceto, per 500 abitanti, è il quartiere più grande di questo municipio. E io credo che chi fa politica, di centro-sinistra e di centro-destra, dovrebbe avere un occhio attento, perché qui chi vota ha i stessi diritti di tutti gli altri quartieri. E qui non si vota tutti a sinistra, eh? E qui non si vota tutti a sinistra. Qui si vota anche a destra. E qui si arriva a 50 e 50, ma lo vogliamo tutelare 50 e 50, sì o no? Questo è un minimo, per cui noi abbiamo iniziato la petizione contro il trasferimento del municipio a favore della nuova linea che abbiamo proposto. costo, informeremo tutti quanti, perché il costo del municipio è altissimo. Il costo della nuova sede del municipio è altissimo, cioè il palazzo del municipio ha una cifra X, non enorme, ma tutto quello che il comune di Roma ha legato alla sede del municipio come opere pubbliche sono enormi. La sede del municipio di Roma, che i parcheggi che si realizzano sono pubblici, la piazza all'interno pare sia pubblica, il tunnel sotto la Via Laurentina è pubblico, il verde pubblico che viene lasciato dai costruttori è pubblico. Cioè, la sede del municipio lì vuol dire per l'amministrazione comunale spendere 40 milioni di euro, 40 milioni di euro per realizzare la sala consiglio in vetro, e questo quartiere non ha un piano sportivo. E dovete sapere di più, lungo via dell'acqua cetosa ostiense, la conoscete, no? Parte da via Laurentina e arriva a Mustacciano, il costruttore Bonifaci sta realizzando una serie di edifici. A fronte di quegli edifici, il costruttore Bonifaci realizza la sede del municipio, ma lo sapete quale? Il 20°. Il costruttore Bonifaci costruisce in questo municipio, ma la sede del municipio viene realizza a quelli del 20°. E noi la nuova sede del municipio la dobbiamo pagare cancellando le opere pubbliche dalla Valentina. Su questo punto noi non ci stiamo. Grazie. Va bene, ringraziamo Alberto per questa illustrazione generale sul quartiere, perché oggi non parliamo solo di conquaglie di diritto di superficie, ma parliamo anche di altre problematiche, la sollevata adesso Alberto, quella del nuovo omicidio, quella della situazione di questo quartiere. L'altra sera via Marinetti era bloccata perché una macchina cadendo in un buco si è voluta seminarsi, è stata abbandonata un'altra macchina. Cioè siamo a un livello da terzo mondo. Comunque, io invece volevo affrontare l'altro problema della serata, cioè quello relativo al conquaglio del diritto di superficie. Voi mi perdonerete se io rifaccio un attimo, cercherò di essere molto sintetico, la storia, perché ci sono delle presenze oggi qui in sala di persone che non sanno la nostra storia, cioè noi la sappiamo tutti, però molte persone che sono oggi presenti non la sanno. Allora, questo è un tettoio del quartiere dato in diritto di superficie. In diritto di superficie vuol dire che il terreno non è di proprietà, ma è dato in concessione per 99 anni. Questo mi pare che l'anno di partenza intorno al 73-75, insomma, parliamo di questi anni qua. Dal 73-75 questo terreno è dato in concessione per 99 anni, cioè noi abbiamo costruito le nostre case, l'altro ha costruito le sue case e quant'altro, noi abbiamo comprato un costruttore, ma tutte le varie situazioni che ci sono sul terreno dato in concessione. Che cosa succede? Che a seguito dell'esproprio fatto di questi terreni, esproprio fatto dall'ARPA, l'Istituto Autonomo Case Popolari all'epoca, i costruttori hanno fatto un'azione legale nei confronti del comune, attraverso la quale il comune si è opposto a questa azione legale, con i propri uffici legali, ed è andato in causa, senza nulla dire ai cittadini. Che cosa è successo? Sono passati tutte le cause, eccetera, eccetera. L'ultima causa, l'ultimo pagamento, anzi, che il comune ha fatto, risale al 24 febbraio del 2000, così come risulta dal documento dell'amministrazione comunale, dalla legislazione. 24 febbraio del 2000. Che cosa succede? Nel 2005-2006, e qui parliamo della giunta precedente, per voi lo sapete, il comune chiede ai cittadini il rimborso di questo conquaglio dopo 30 anni. Dice, buongiorno, sapete qual è la novità? Voi mi dovete dare questo conquaglio. Grande casino, vi ricordate, abbiamo fatto le manifestazioni, eccetera, eccetera. Alla fine, che cosa succede? Che il comune attua nel 2006 un prevediamo anche un termine massimo di un mese per discutere questa tematica relativa a Cuba. E nel frattempo ha fatto una sua sospensiva sia di ieri da quando non ci ricompone. Non c'è più sicuro. E questo sto parlando adesso con i quadri. E non c'è più sicuro. Il tempo passa, nel 2008 cambia la giunta, adesso c'è la giunta Alemanno, la giunta Alemanno nel 2010 si ripresenta da altri cittadini e dice guarda tu mi devi dare il conguaglio, quindi sono passati nel frattempo 40 anni, insomma qua. Questo conguaglio viene calcolato a un prezzo diverso rispetto a quello del 2006. Arriva il 24 febbraio del 2010. 24 febbraio del 2010, che succede? Che chi non ha ricevuto nessuna comunicazione, il compagno è presente. E questo non lo dice, no, lo dice sia il TAC che il Consiglio di Stato. L'abbiamo scritto. Quindi dal 24 febbraio del 2010 si crea in questo quartiere una situazione che di nuovo cattiano è il minimo. Perché abbiamo, immaginate questo centro del quartiere, il 50% del quartiere che sono gli ex inquilini under, per i quali il conguaglio è stato pagato la data. Parliamo di conguaglio, fate attenzione, non parliamo della trasformazione di una superficie di proprietà. Del restante 50%, il 50%, quindi un quarto, ha ricevuto un avviso, però questo 50% a sua volta ha una divisione 50% e 50% tra chi l'ha avuto nel 2006 e chi l'ha avuto nel 2010. Un quarto dei cittadini di questo quartiere ha il conguaglio in prescrizione, quindi non pagheranno mai il conguaglio. Capite che questa situazione, cioè francamente, io per cui dico come facciamo a uscire da venire a casa, perché ci sono cittadini di serie A a cui il conguaglio non è arrivato e non lo pagheranno mai perché è prescritto, cittadini di serie B che sono quelli a cui il conguaglio gli ha pagato l'aria, cittadini di serie C che sono quelli a cui è stato mandato il conguaglio a valore 2006, quindi è bloccato, quindi il prezzo è fissato al 2006. Cittadini di serie D che sono quelli a cui il conguaglio è valore 2010. Allora, voi capite bene che chi si è prescritto non lo pagherà mai, anche se il comune si butta in ginocchio. Gli altri cittadini dicono, ma perché lo pagherei quando quelli non lo pagano? E questo è il conguaglio. Il diritto di superficie è un'opzione che è arrivata ai cittadini di trasformare il diritto di superficie, il diritto di superficie in diritto di proprietà. E questa è una questione di cui stiamo discutendo. Però ovviamente tutto questo ha una variante. Cioè oggi se un cittadino volesse pagare il diritto di superficie e il diritto di proprietà, non lo metti magari, perché non esiste più l'intesatore a Genova. Questo è il comma 22 di struttura, quindi chi se lo ricorda, insomma. Cioè siamo nella parte. Però attenzione, questa è una cosa che a noi personalmente ce manda fuori la grazia. E cioè la famigerata delibera 142. Perché famigerata delibera? Perché con questa delibera, il comune mette interessi sugli importi da pagare. Allora, noi non sappiamo il conguaglio, diciamo non va a pagare, cioè quella situazione che abbiamo detto prima. Il diritto di superficie non sappiamo ancora come, se pagare il mutuo, se contrattare su questo, eccetera, eccetera. E il comune dice, vabbè, intanto ti applico un interesse pari all'inflazione. Allora io vi domando a voi qual è il conto corrente in banca che vi dà l'interesse per fare l'inflazione, nessuno, cioè erano una manca l'inflazione. Allora il comune nei nostri confronti si fa le canzone, cioè in realtà la contingenza, siccome noi siamo diversamente giovani, la renderanno, c'è stata data, e come ne sarà arrivata? Cioè se è fatto la contingenza, allora prenderiamo il mare calmo, nel frattempo cammina sotto questo sviluppo. Attenzione, perché se questa delibera passa, è un governatore che va avanti, che va con interessi composti, cioè sul capitale il primo anno matura l'inflazione, il secondo anno matura l'inflazione sul capitale e l'inflazione dell'anno precedente, il terzo anno così via, cioè noi da 60 anni che andiamo in niente casa e diciamo vorrei entrare perché non c'è più problema, cioè, è un meccanismo perverso per cui le opposizioni che sarebbero. Ma questa battaglia che stiamo facendo con un comune che sta ripresentando ogni lunedì e ogni giovedì questa delibera è diventata una cosa incredibile. Dal punto di vista politico, come avete visto, questo consiglio di quartiere si è battuto contro la giunta precedente su questo problema e si sta battendo contro questa giunta su questo stesso problema. E noi abbiamo mantenuto la barra al centro, cioè siamo stati sempre coerenti. Quindi c'è questa delibera 142 che è sempre un tentativo di riproporla, perché se la riproporrono loro a questo punto la trattativa va avanti anche 5 anni con gli interessi e con un tassista che noi abbiamo lasciato sotto casa e qui la sala non gira, anche il tassista che gli frega se su pure 3 ore è diventato un tassista e il tassista non gira. Nel contempo abbiamo aperto un tavolo tecnico con l'assessore Corsini, con gli uffici tecnici dell'assessore Corsini. Ci siamo visti dunque intorno alla metà di settembre, se non sbaglio, con l'assessore Corsini, e l'assessore Corsini ci ha detto al responsabile degli uffici tecnici, vi ricordate che c'erano anche, sappiamo niente della legge della documentazione. Comunque gli abbiamo dato la documentazione, documenti a sconto, eccetera, eccetera. Il 23 settembre protocolliamo la consegna di questi documenti, il 23 settembre 2010, abbiamo qui il protocollo. Siamo dovuti andare a fare una manifestazione il 25 novembre, perché il comune non ci ha chiamato. Adesso, dopo la manifestazione, ci hanno detto, ah, ma ci sembrava di avervi chiamato. Ah, ma non ci ricordiamo, ma strano, ma come mai non siete venuti? Come mai non siamo venuti? Abbiamo portato la documentazione, aspettiamo la vostra chiamata, non ci chiamate. Il 25 novembre siamo venuti a Madrid. Dopo, il giorno dopo, il 26 novembre, abbiamo telefonato, guardate, li convochiamo per una decenza. Questa è la situazione. Allora, quando noi diciamo questa delibera 142 va bloccata in tutti i modi, ed è il presupposto basilare per iniziare qualsiasi trattativa. Io non posso fare una trattativa col comune quando il comune mi tira sotto, cioè un qualcosa che mi dice comunque sia sei penalizzato e non lo posso accettare, no? Cioè che vuol dire? Cioè tanto non ho interessi, no? Se lo fa, non se lo fa nessuna trattativa viene fatta così, viene fatta la trattativa per portare la lavoro. Dopo era questo che volevo dire. Poi c'è una cosa fondamentale che ricordava giustamente Graziano. Il 31 dicembre scade la proroga fatta quella dal comune Roma dall'assessore Corsini, scade la proroga perché dal 2010 questa gente che ha ricevuto la richiesta del quadro del 2010, siccome c'era un ordine perentorio dell'agenda di pagare entro un tot numero di giorni, che è successo? Che per evitare il consiglio per evitare che questa gente si trovasse costretta a diciamo costretta a questo discorso del pagamento, abbiamo fatto delle proroghe. Allora adesso il 31 dicembre scade l'ultima prova, quindi da gennaio qui sono presenti membri del comune, consiglieri comunali, consiglieri regionali, via dicendo, per il 2 scade questa prova, quindi noi dal 1 gennaio siamo nuovamente sotto pressione, perché ora cioè, sta mettendo in crisi teoricamente la 140 anni. Va bene, allora, no, un attimo, volevo dire che sono arrivati con i manti del circolo di Vito Laurentino, è arrivato il consigliere Nobili, il consigliere regionale Nobili, e consigliere Guadagno, consigliere Guadagno e Guadagno. E mi pare che abbiamo detto tutto a questo punto. Io credo che si sia dimenticato una cosetta, e cioè, visto che è fermo sto conguaglio per diritto, se io voglio acquistare casa, oggi non la posso acquistare se non definisco prima sto conguaglio. Quindi a me mi stanno creando un danno. Questo va evidenziato. E oltretutto anche non è nemmeno l'ente pagatore, perché la Gemma non c'è. No, ma è molto detto che siccome la Gemma non c'è, se il consiglio comunale viene approvato la delibera 142, a noi ci scatta l'aumento senza poter decidere di sospenderlo questo aumento fino a quando il comune di Roma non decide che l'ente a cui pagare. Allora, dopo queste due spaccate in relazione che ci hanno fatto, tra l'altro, riportare